lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. E 44 minuti primi, le frequenze, gli 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, Radio Onda Rossa. Sì, Radio Onda Rossa. Dopo la presentazione di due libri e molte parole e due puntate precedenti, che trovate peraltro, qualora abbiate la voglia di ascoltarle, di riascoltarle, sul sito della radio www.ondarossa.info, insieme a tante altre autoproduzioni che la radio fa durante il palinsesto. Ripeto, www.ondarossa.info, sito della radio, ci trovate. Tastino interessante, importante per noi. Ci sta scritto sostieni. Ci cliccate dentro e potete leggere come si fa a sostenere la radio, almeno in forma economica. Il sostegno che date alla radio è come al solito, come fate ogni giorno, quello delle vostre corrispondenze, dei vostri interventi. Negli spazi, praticamente sempre che la radio offre, le telefonate vostre sono sempre ben accette. Ci sono anche dei canali sui social che a noi non è, insomma, che ci convincano molto i social, per come sono strutturati, per come sono nati, per come si sono affermati, per l'evoluzione che hanno avuto. Ma che ci piacciono o meno, sono una modalità di comunicazione che molte e molte di voi utilizzano. E il voi non è né polemico e nemmeno, ma assolutamente, che ricalca la verità. Per un banalissimo motivo, che oltre così a non piacerci da personalmente, dal tempo in cui i social nemmeno esistevano. Ma c'è di più, non abbiamo tempo per seguirli proprio, non gli se va. Sempre con in mano sto cazzo di cellulare, di smartphone, col PC acceso, anche basta. C'è un non so che di ossessivo che ci spaventa in tutto questo. Eppure il mondo è bello, ci stanno dei sensi di cui siamo dotati, che permettono di guardare anche lontano, di sentire anche da lontano, di percepire gli odori che vengono da distanza. E perciò allontaniamo lo sguardo da queste macchine. Ed è un po' questo pure lo stile di 25 O'Clock. La radio l'accendi, te ne vai in giro per casa, per dove ti pare, con le cuffiette, eccetera, eccetera. Ma fai altre cose nel frattempo. E appunto, la email della radio per interagire con noi, pre-social, è ondarossaghiaccio@ondarossa.info, mandate lì le vostre comunicazioni. 25 o'clock 25 è scritto al numero. @ondarossa.info invece la casella di posta elettronica dello spazio che state ascoltando, usate per sottoporci i vostri materiali sonori o nonché per insultarci, bravi e brave. 0649 1750, il recapito telefonico della radio. Butteremo due chiacchiere in partenza, così, tanto per ricordare un po' di iniziative importanti. Ci dispiace, lo diciamo, di non avere potuto, non aver saputo, anzi, pubblicizzare Marci su Roma, lo strike spazio pubblico suggestito. Ne parleremo o lo leggeremo, ne annunceremo, diciamo, le coordinate fra poco. 0649 1750, che enfasi, per dire il numero di telefono della radio. Fate trillare, accendete di rosso la redazione della radio più rossa che c'è. E qui non parte la traccia successiva, perché ci siamo assolutamente persi in chiacchiere. E quindi, andando a cercare la traccia, eccola qua, così tanto per partire sbagliati, eccolo che arriva il trillo. E partiamo mentre trillano 0649 1750 con una vecchia roba. Con una vecchia roba che un po' all'origine dell'hip hop. Siamo nel 1982 e negli Stati Uniti, quando non c'erano ancora i social, ci stava un fenomeno un po' così vicino a quello di Radio Onda Rossa. A capo perciò si tratta di Consolidate. E queste erano le College Radio e mandavano ste musichette così, AVPs Consolidated. America number one is alive still. How many innocent people are killed? Do our soldiers believe in the fascism? No, they just couldn't get a job, so they had to go and get ground up in Bush's war machine. What the fuck do the polls on TV mean? We won't give our consent to blow up foreign soil. No blood for oil. War. What is it good for? Nothing. Absolutely nothing. Nothing from nothing leaves nothing. You gotta have something. You gotta have peace. January 15th, 1991. The deadline, curious George gave Saddam Hussein to evacuate troops from Kuwait. Oh yes, curious George Bush, the same curious George that vetoed the Civil Rights Bill. Ironic enough, the birthday of Dr. Martin Luther King, the drum major for peace. War is not the answer. War is not the answer. War is not the answer. War is not the answer. I don't understand it, it makes my blood boil. All foreign soil, trading blood for oil. How many heroes would there be from this war? And what the hell are we really fighting for? Why in the hell would I serve my time to Sam? When Sam don't give a damn. Now here's an opportunity for peace and unity. Ceasefire in the Middle East. It's time to increase peace. Citiamo quindi marci su Roma, lo strike 2 novembre. Corriera da molesta di Youth Yourself. Underground Festival, marci su Roma. In Bella Vista, ovviamente. La band di punta, Oi Polloi. Undertakers. The Stars, affluente, contrasto. Overcharge, culto. Gallons of water is needed to produce a Del Cargo, Isle. On foreign oil is one of the principal. Non abbolgia. Minoranza di uno. The length of time the world's oil reserves would last if all human beings ate a meat. Motron. Would be approximately 13 years. The length of e Urtondo. Reserves would last if all human beings. In solidarietà con chi si ribella. 260 years. Ogni ricavato sarà devoluto per le spese legali di compagni e compagne private della libertà. Sabato 2 novembre 2019. Roma Strike, spazio pubblico autogestito dalle 17, via Umberto Partini 21. Contro ogni sgombero, strike non si tocca. Dibattiti, mostre, presentazioni, distro, autoproduzioni, insomma, avete da fare. Per i morti. Over 20 million people. Almeno così dicevamo, diciamo, a Roma. In the third world, private and government money has gone to developing cash crops for export. Mentre Consolidated fanno il loro comizio, dicevamo, non parleremo moltissimo. To animals raised for food rather than going to hungry people. On a purely vegetarian diet, the world can support a population many times its present size. On a meat-based diet, the current world population... Ma andremo a saccheggiare a piene mani da... una trasmissione che già qui in radio ogni martedì sera si fa sentire, chiude il mezzetto del martedì, e cioè Termini TV, che fa delle splendide interviste dalle stazioni ferroviarie e non solo. In the US, this year alone, le video interviste che potete trovare sul sito www.termini.tv, 5.5 million sheep, 242 million turkeys, 4,147,000,000 chickens. Anzi, non è www.termini.tv, ma vabbè, andate su Google, mettete Termini TV, sarebbe termini.tv, eccetera, eccetera. E, raising of animals on today's factory farm. È pure un canale YouTube, comunque. Officially inseminated, fed growth hormones, overcrowded, chained and caged. Raising livestock for profit is a competitive business, and being humane means costs will go up. E che quindi contiene del materiale molto bello, interessante da ascoltare, da vedere su internet, da scartabellare. È altrettanto adatto per contaminare, per provare a fare i soliti nostri esperimenti falliti. Do not believe the protein myth. Riguardo possibili composizioni radiofoniche. Animals who need 1000 times more protein. Vi ricordo inoltre, ancor più con pressanza, la sottoscrizione per la radio, ne parlavamo prima, del sito 6180401, il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. Ma quello che ci piace ancora di più è vedervi venire alle iniziative della radio a tutti e a tutte, quindi La Dignità del Lavoro, presentazione del libro di Alfonso Nadella giovedì 31 ottobre al Cinema Palazzo, è l'iniziativa della radio, veniteci. Veniteci perché Alfonso Nadella è un personaggio molto interessante, molto profondo nelle sue analisi, critiche e ragionamenti che vanno in equilibrio fra una visione della vita viva, poetica, piena di amore per la vita, e altrettanto una visione scarna, cinica, se volete, materialistica, come sarebbe meglio definirla, in cui si individua con precisione chi è che ci rende dannata la nostra vita, che altrimenti potrebbe scorrere se non felice, comunque almeno senza obblighi e senza catene. In questo caso le catene che ci impone il lavoro salariato e il lavoro nello stato di cose capitalistico. Dicevamo, La Dignità del Lavoro, presentazione del libro Alfonso Nadella, giovedì 31 ottobre alle ore 21, Cinema Palazzo. Si ragiona di lavoro e di ozio con l'autore del libro, in sottoscrizione libera e cena dalle ore 20, a sostegno per Radio Onda Rossa, in apertura reading il ricordo di Nanni Balestrini, e poi c'è questa bellissima frase sulla locandina che promuove questa iniziativa, che dice: senza la contemplazione sulle cose del mondo, senza il gioco e senza l'ozio, non ci sarebbe stata la capacità tecnica di accendere il fuoco, di conoscere le stelle ed il perrotare eterno e ricorrente delle stagioni iscritto nella posizione degli astri nel cielo. Quindi il nuovo Cinema Palazzo, piazza dei Sanniti 9A a San Lorenzo. Sosteniamo anche il Cinema Palazzo, come sapete, come tutti o quasi tutti gli spazi sociali minacciato di sgombero. Stone. vengo qui a Porta Garibaldi ogni tanto quando ho qualcosa da fare qua a Milano. Sono nella provincia di Bergamo dal 2004. Secondo me dire marocchino e berbero è la stessa cosa, perché i berberi sono il popolo indigeno del Marocco. Più del 90% dei marocchini sono berberi, anche molti di loro, anche se sono arabizzati, si credono arabi, in realtà sono berberi. Io mi sento un marocchino di etnia berbera, essendo cresciuto qua in Italia, ho studiato qua, mi sento un po' anche italiano perché ho passato più della mia vita qua. Prima pensavo che i berberi erano solo in Marocco, poi ho scoperto che ci sono anche in Algeria, poi ho scoperto anche in Libia, in Egitto. Poi quando ho avuto la possibilità di accedere a internet ho iniziato a fare delle ricerche più profonde, poi ho scoperto che anche i Tuareg sono berberi, ci sono anche in Mali, in Niger, Burkina Faso, Mauritania, ho scoperto molte cose con internet facendo le ricerche. È una cosa simile ai curdi del Kurdistan Iraq e ai curdi della Siria. Sono musulmano però non praticante, però sono laico, mi piace la laicità. Uno deve essere libero di praticare la religione che vuole. Anche nei paesi islamici, nei paesi che si considerano islamici, tutti devono essere liberi di praticare la religione che vogliono o essere liberi anche di non credere. Gli arabi sono arrivati dopo la nascita dell'Islam nel 700 e hanno colonizzato il Nord Africa. Da lì sono iniziati arabizzazioni. Molte tribù berberi oggi in Libia, in Tunisia, in Algeria credono che essere arabo sia essere più vicino al profeta dell'Islam Muhammad, credono che sia una cosa positiva, una cosa in più, per quello si credono arabi. Ci sono anche i berberi che parlano ancora la lingua berbera, però si dicono che sono arabi, secondo me per ignoranza, perché come dice l'Islam è arrivato per la pace, per tutti i popoli del mondo, non per gli arabi e basta. orgasmi ai fantasmi, non ci ho mai creduto. La condanna e la speranza, la fede e la partita, una casa con giardino, un lavoro per la vita, le grate alle finestre per proteggersi dal resto, è un creato galleggiare in cambio del proprio silenzio. La condanna e l'incoscienza di non credersi coinvolti e non cercarsi dentro, e non cercarsi dentro agli altri. E più l'ascolti, più ti abitui ad una lenta resa, alla ricerca di una tregua da chiamare vita. La tua condanna è la speranza, la fede e la partita, una casa con giardino, un lavoro per la vita, le grate alle finestre per proteggersi dal resto, è un piatto galleggiare in cambio del proprio silenzio. La tua condanna è l'incoscienza di non credersi coinvolti e non cercarsi dentro, non cercarsi dentro agli altri. E più l'ascolti, più ti abitui ad una lenta resa, alla ricerca di un pacificato esistere fittizio da chiamare vita. Elementis, elementi strutturali di soggetti nuovi pensanti, per un nuovo sistema primordiale planetario senza più memoria. Fino a quando sono sopra e si stanno sotto, muovendo le perturbazioni mentali dei potenti della Terra. Ciò che è scritto accadrà, come la nostra sorte è stampata sul DNA. Il tempo è molto più veloce di quello che doveva essere, le cellule stanno muovendo prima, ammazzi proteici stabilmente muovendo verso la loro confusione. Qualcuno si sta riprendendo ciò che gli appartiene, ma intanto regolando le forze tutto insieme tiene, creando disegni geometrici, simmetrici, nelle nostre metà oscure, contrabbandando il controllo genetico di medite pure. Moridi, haha, Gepenza, lo spettacolo mosta via, deve continuare nello scenario planetario. Rido, mi muovo tecnico e intanto annoto tutto sopra il mio diario. L'arte cabal. Dei monumenti più tristi e abbandonati della città, però ha una storia molto interessante legata al colonialismo italiano e legata alla stazione Termini. Infatti originariamente non si trovava vicino al, appunto, tra le terme di Diocleziano e largo via Ludovico Einaudi, e non si sa bene nemmeno come si chiama questa piazzetta, è quasi un non luogo. Si trovava appunto davanti alla stazione, quando la stazione assomigliava un po' alla Gare de l'Est, non aveva l'aspetto che ha oggi. L'aspetto che ha oggi è una ricostruzione appunto cominciata durante il fascismo e finita nel dopoguerra, quindi sembrava un po', per dire, come il Museo d'Orsay. Allora, Dogali è appunto una città che si trova in Africa orientale, e in questa città appunto si dice che 500 italiani, in realtà erano molti di meno, erano morti in una battaglia, in una scaramuccia, che erano appunto abbastanza frequenti durante le guerre coloniali. Sta di fatto che comunque il monumento, che poi è stato dedicato successivamente a questi soldati morti, ha creato un po' di scompiglio la notizia della morte dei soldati in Italia, e successivamente anche il monumento. E in Italia c'è stata una grande discussione, appunto molto retorica, molto sui nostri figli caduti lontano di casa, ma c'era anche chi invece aveva all'epoca fatto una denuncia diciamo, alla guerra coloniale, e penso esattamente a due persone, uno a Andrea Costa, socialista, che parla di merce avariata rispetto alle guerre che si facevano fuori, alle guerre che erano poi guerre di conquista, e Ulisse Barbieri, un anarchico, che disse in una sua poesia: ma non lo capite, io branco di cretini, che i partigiani sono appunto gli abissini. Il monumento, come lo vediamo oggi, ha una base ottocentesca, però l'obelisco è veramente un obelisco egiziano che si trova abbastanza nel degrado. Nessuno lo collega a Dogali, nessuno lo collega nemmeno ai vari intellettuali italiani dell'epoca che, scusate il termine, ma si sono scannati letteralmente su fare o non fare il monumento. Per esempio, per citarne uno, Giuseo Carducci si è negato appunto di scrivere un ode per questo monumento, per questa stele di Dogali, e poi chiaramente c'è il solito D'Annunzio, che non manca mai in queste situazioni. Insomma, D'Annunzio nel piacere aveva fatto arrabbiare molte persone dicendo appunto: ma appunto dedichiamo dei monumenti a 500 barbari morti brutalmente. E questo numero 500 ritorna spesso nella narrazione, legata a questa stele, ma legata anche a Piazza dei 500. Molti romani non lo sanno, no? Appunto, chi sono questi 500? Sono legato al Rinascimento? È legato a un altro episodio storico? In realtà no, è legato a questo episodio di guerra coloniale. Io ho sempre trovato curioso che Piazza dei 500, appunto legata al colonialismo italiano, sia anche però la piazza oggi dei migranti, dell'inizio dei viaggi dei migranti, ma anche dell'incontro dei migranti, soprattutto dei migranti del Corno d'Africa. Amazing, ill, highly contagious, kamikaze sound splash like a shot from a gauge until your body sound clash. Head of the class, magna cum laude beats, bring the beast out me. Flagrant, foul, rowdy, reed, pipe, a deep type. Disposition, keep on flipping, keep on playing they position. Keep making the people listen what I spent. Put them out on the limb, got tears, got blood, got sweat, leaking out of the pen. Y'all fake niggas not setting the trend, we never listen to them. It's like trying to take a piss in the wind. My home team doing visitors in, yo, don't test them, they all standing close to the edge, so don't stress them. Now who the type built the laugh, it's no question the master, villain in black with no steps in my sound, hitting you hard from every direction, your head and your shoulder area, your midsection, dog. Yeah, when it's dog. Home with the nine horn, with the net, the rhyme, with King Khan, he can climb, man, give it here, and don't say nothing, just give it here, and don't say nothing, when it's team, home, sack, hit the blunt, home, black, hit the band, home, let the thing, cut the check. Give it here. Don't say nothing. Give it here. And don't say nothing. Illidel, home of the original gun clappers. Out on the wrong corner, your shit'll get spun backwards. You got the forewarning of rules. Enter at risk of your own nana. Keep a gat under the mattress. Shorty's running reckless from Philly to Texas. Surprising what niggas willing to do to get a necklace. Some emotions felt better left unexpressed at times. Niggas crime record longer than a guest list. Yes, I done seen things you wouldn't believe. Seen people reach levels thought they never achieved. Silhouettes waiting in the wings ready to thieve. Thirsty shites who need at least a buck to breathe. Come on, stick up kids, they be out the tax. Most times they be sticking you without the gas. I still be on the grind when it all collapse. And if it's my worst bond, I'ma take it right back, nigga. When it's home down with the nine horn, with the net, the grind, with King Khan, he be down, man. Give it here, and don't say nothing, just give it here. And don't say nothing, when it's ain't home, check with the blunt, don't clap, hit the plan, horn, let the thing, cut the check. It ain't nothing like the rush I get in front of the band. On stage with the planet in the palm of my hand. When a brother transformed from anonymous man to the force, crush whoever might have thought I was playing. I'ma flame some sinister shit. The cold twisted slang thicker than big boy baby mom sister pain. Beyond measure, relaxed under pressure. You see the masterpiece, but to me it's unperfected. Give it here, get for records. I'm off the handle, cut the check, and yo, it better be as heavy as anvils. Next joint coming, all bets is canceled. Nigga, black ink, grand wizard G financial. We finna have a whole industry at a standstill. See me put the system on lock like Campbell. So get with them endorsements and car reinforcements, cause my click coming for a sizable portion. When it's yeah. Home down with the nine, with the net, the rhyme, with King Khan, he can climb, man. Give it here, and don't don't say nothing, just give it here. Don't say nothing, say nothing. Check with the blunt, don't clap with the plan, huh? Let the thing, cut the check. Give it here, don't say nothing, say nothing. Give it here, and don't say nothing. Come on, come on. Primo mio lavoro è stato lavorare con una nonna, l'ho visto morire davanti a me, è stato dura perché accudire una persona quando tua mamma laggiù ha cancro non è facile. Sono approdata a Roma nel lontano 2001, in mese di dicembre, e la persona che ha promesso di incontrarmi non mi ha incontrato. Io stavo da sola sul binario 1, già abbiamo avuto dei problemi, diciamo, alle frontiere con l'Austria, ci hanno tornato indietro, ma io aver pagato quel visto $1,400, guardavo le montagne e pensavo no, io indietro non ci torno, io scavalco queste montagne ma comunque devo arrivare a Roma. Per la nostra comunità, in questo luogo dove ci troviamo adesso, è stato molto importante questo luogo. Iniziando con anni 96, prima ondata dei migranti, da quale faccio parte pure io, perché adesso sta arrivando la quarta ondata dei moldavi, si incontravano tutti qua. Qua vicino a via Montebello 8 c'era la nostra ambasciata, e soprattutto perché qua arrivavano e arrivano ancora i pulmini che portano i pacchi a casa. Moldavia e Italia siamo 150.000, maggior parte di loro sono donne. Un po' mi sento italiana, perché questo anno, dopo 16 anni di Italia, ho avuto la cittadinanza italiana. Certe volte quando vado laggiù, se io parlo veloce, gesticolo, mi permetto di rispondere a una persona che ha un certo livello occupazionale, o litigare con un uomo, o mi comporto da italiana, laggiù ti dicono ah, è arrivata italiana, mi sento un po' discriminata, o ti guardano come sei vestita o così via. Allora, immigrato non sta né qua né là per me. Immigrato ha doppia vita. È accaduto nel mio paese di nascita che sono crollate adesso tre banche per colpa dell'alleanza di destra, coloro che noi li abbiamo votato e che abbiamo pensato che ci fanno avvicinare all'Europa. Invece loro hanno rubato, adesso è sparito $1 miliardo. Vi immaginate che un paese così povero, più povero dell'Europa, far sparire tre banche è una catastrofe, diciamo, sociale e economica. Se mio figlio un giorno vorrà tornare lì, lo farò andare prima a lui, perché già è andato questo anno, e quello che mi ha fatto piacere è che lui è tornato con una valigia piena di libri. Ha portato libri sia in rumeno che in russo. È andato lì, ha studiato russo, ha studiato rumeno, parla meglio di me. Mi dice che tua mamma ancora parli come i sovietici, la nostra lingua, e questo mi ha fatto molto contenta, che mio figlio di seconda generazione si interessa al mio paese di nascita. Le donne moldavi hanno età da 30 anni a 55 anni, allora se noi ragioniamo, quando una persona esce in pensione in Italia, fra 10-15 anni avrà luogo una migrazione di ritorno, così come è stato con i polacchi. Voi se guardate qua intorno, adesso polacchi sono pochi, allora pure noi moldavi un giorno torneremo a casa nostra. Grazie a Italia tanti di noi abbiamo mantenuto lì le nostre famiglie, abbiamo dato studio ai nostri figli e siamo diventati liberi. Abbiamo fatto, diciamo, il 68, che le donne italiane hanno lottato per fare quella rivoluzione femminile. Noi siamo venuti in un paese evoluto dove ci sono certi diritti delle donne italiane, e noi abbiamo approfittato perché è già tutto pronto. E tornando laggiù noi ci sentiamo più libere, più emancipate. Cacare cagheremo, manna ma chi sare. Siamo una stessa barca, siamo sullo stesso mare. Che succede, cagheremo, manna ma chi sare. Con il corpo pigliato, so c'è coi pacama a dare. Me faccio a 18 anni che cangiava pannolina. Chi sia vita? Ogni lassata è pittosa. E sta speranza, ogni tanto salto, ogni tanto sai sota. Sarò spietato come il tossico che cerca la sua dose. Violento come il vento che si scaglia sulle rose. Rabbioso come il sole che sbatte sulle case. Come chi a fine mese stringe cinta, pugni e denti. Chi resiste fra senti e lamenti. Chi passeggia tracciando orizzonti. E chi crede ancora felici e contenti. Succede cacariamo manna ma chi sai. Siamo una stessa barca, siamo sopra stesso mare. Succede cacaremo, manna ma che sare. Con ogni colpo pigliato, so c'è coi facama a dare. Sto vivendo e lo so. Quello che farò, in cosa crederò. Sto vivendo e non so. Quanti fratelli avrò, quanti ne perderò. Sto vivendo e lo so. Che ciò che mi darai è ciò che ti darò. Sto vivendo e già so. Come sarà la vita che verrà. Ciò che sto vivendo. Sto vivendo e lo so. Quello che farò, in cosa crederò. Sto vivendo e non so. Quanti fratelli avrò, quanti ne perderò. Sto vivendo e lo so. E ciò che mi darai e ciò che ti darò. Sto vivendo e già so. Come sarà la vita che verrà. Sto vivendo e lo so. Sto vivendo e lo so. Sto vivendo e non so. Sto vivendo e non so. Sto vivendo e lo so. Johnson's chemical substance, rubbed in with love, it's nonsense. Then we juke with the vaccine pump that we put trust in. But what they put in us is disgusting. Trust this, adjusting our DNA structures. And best believe that we're weak and easy to infect, cause we were weaned off the breast to disease from the best C&D and the rest, yo. And the best joke, some don't drink from their mother, but will drink from the mother of another gone new. A joke so true, cause the joke's on you. Do you know who your so-called food Monsanto do? I suggest that you're dead, that dead fast. A molecular death trap attacking on the cellular death, fam. Cause everyone's buzzing off of something. Yeah, everyone's buzzing off of something. Everyone's buzzing off of something. We're all junkies, yeah, we're all drug fiends. Cause everyone's buzzing off of something. We sip caffeine in the week as the crack of the whip and drink on the weekend, so we're distracted from it. Facts, my man, Mr. Hicks, had to drop that and add my twist and rap it, cause it captures exactly what average is. An average is the madness, an average is the mad, cause look at the average is the cancer. Damn, now that's damage. But now you know how it happens, you can go about trying to challenge it, scrap it and cut it out. So go to your cupboards and chuck it right out. All of that poison, chuck it right out. All of that duttiness, chuck it right out. I talk a little bossy, but right now, alright, I'll pipe down. But even the piping's got me on the hype ting. Water arrives and it's grimy. Fluoride and all types of talk that will get your tongue tied. Done tried, but the point? Cause everyone's buzzing off of something. Yeah, everyone's buzzing off of something. Everyone's buzzing off of something. We're all junkies, yeah, we're all drug fiends. Cause everyone's says something ain't right. Looks suspect to eyes, an innocent disguise. So I looked it up, looks like I'm right. But no one looks up, cause they're all looking down at their phones. Their surroundings drowned out whilst they're gambling or droned up. Some of a habit that's captured their soul. An addict, the pattern that's trapped and controlled. There's damage composed from the net and cellular phone connection called cellular growth. That's a regular book with a regular host. Gotta question it though. Net back, head slant. When did I enter this death trap? Beg you tell a gal how to get back. Cause what's next, fam? A backpack packing a canister with a gas mask strapped to it. Now I'm not having it. I'm from China, a small city called Rugao. It's a small city 2 hours away from Shanghai. And when I was in my university, I exchanged to Spain. I met my Italian friend, Cristiana. Now I'm visiting her and traveling around the city. I'm studying computer science, the human-computer interaction design. And user interface is like the webs. For example, for the website, you see it. The buttons, graphic interface, the user experience is about the whole process, like how you log in, the entire experience you get. I think in China, it's more inspiration for me because now, for example, we go to supermarket, we use our phone to pay. But here, people still use credit card a lot. I think China is doing better in this field. Ciao. Ciao. Ciao. How are you? Good. Speak English? Yes. I saw you speaking in Swahili. How are you? It's very interesting. I met this guy, he's doing a project with people from station. Si. So, do you want to join us? Yeah. No, take a seat. Va bene. Yeah. You can sit also there. Me? I'm from Nigeria. Nigeria is good. And they are very intelligent. Business. We are like Americans, you know? You know? Why did you come to Italy? Because no good living, the governments, they don't care about the youth, you know? I studied banking and finance instead in school. So I have my university document, my certificate. So no school, no job, no lavoro. It's not good. So I decided to try my luck somewhere. Why? No job in Italy. White people like you don't like black people. Why is it like that? No, when I take a bus from my side, so I saw some students like, oh. You know? How was that? It's not good. We are the same. I mean, barber. I cut hair. See? Ah, okay. Stylist. Hair stylist. See? Ah, okay, cool. I'm going to Terni. I live at Terni. Where? Terni. Terni. I'm waiting for my train. So you have to invest in your country to make a better place, you know? You can't just make money in your country and go to another country and invest. Non conosco il nome, la sua voce nell'età che aveva. Non so dire nella vita quale fosse la sua meta. Ma immagino il suo viso, la beffa nel sorriso. L'eroe per tradizione, a figlio giovane e deciso. L'origine è confusa, so la provenienza. Alta Val di Susa, Alpi di Provenza. Terra di viandanti, commercianti e miscredenti. Dove il mare incontra il cielo al crocevia dei venti. Ah, terra di conquista e di dominazione. Sotto al ferro dei tiranni e la garrotta dell'inquisizione. Da qua la rabbia antica che ispirò la decisione. Vendetta di antenati senza nome. Conosco il tempo a cui risale, è storia orale. L'era tecnologica, l'economia globale, distanze frantumate, pianeta interconnesso, velocità elevate come mito del progresso. La leggenda narra di un progetto faraonico, un ponte verso oriente con un treno supersonico, corsia di sfruttamento, diaspora industriale, lingua di cemento, tentacoli imperiale, logistica d'assalto, eminenze dell'asfalto, i re del capitale rinnovavano lo smalto, volevano quel treno raggiungesse il Portogallo, l'avallo a bucare la montagna col metallo. Noi non vogliamo questa alta velocità in Val d'Etosa. Noi non vogliamo questa alta velocità in Val d'Etosa. Noi non vogliamo questa alta velocità in Val d'Etosa. Se non vogliamo questa alta velocità in Val d'Etosa. Un'altra grande forza dispiegava le sue ali, calcava le dorsali, parole come strali. Dicevano che il territorio è un bene collettivo, da quella valle aperta che si erge su Torino. Il mostro a capofitto mangiava la pianura, lungo il suo tragitto capannone a dismisura. Ma sorta dall'altura, la forza fu congiura, sfidando la creatura si frappose all'andatura. Fu allora che quel giovane decise di reagire, accecato il cuore scese a valle all'imbrunire. Varcata la stazione chiede seguito all'azione, salì sul treno in sosta senza alcuna esitazione. Votato al sabotaggio, un treno per ostaggio, guidava il folle viaggio senza l'equipaggio, il grave oltraggio. Armato dal voltaggio, diede la potenza propulsiva al suo coraggio. Pensavano ad un pazzo, a guida di un automa, lanciato come un razzo sulla tratta verso Roma. Lanciato per intento, veloce come il vento, un treno senza freni contro il Parlamento. Contro mafia e spazzatura, la dittatura di cupole corrotte da affarismi di Ventura. Per riparare al torto aveva ucciso la paura, quel giovane sapeva che sarebbe stata dura. Noi non vogliamo questa alta velocità in Val d'Etosa. Noi non vogliamo questa alta velocità in Val d'Etosa. Noi non vogliamo questa alta velocità in Val d'Etosa. Dell'alternativa. Noi combattiamo chi distrugge roba velena ed abusa. E non ci piace questo treno che peraltro nessuno lo usa. Diglielo, diglielo. E non ci piace la ricchezza che poi non è mai condivisa. Senza contare che per noi la ricchezza è tutt'altra cosa. Tutt'altra cosa. Noi non vogliamo questa alta velocità in Val d'Etosa. E non vogliamo neanche antenne, basi USA e trivelle per casa. Noi difendiamo i nostri spazi e non dobbiamo chiedere scusa. Se non vogliamo questa alta velocità in Val d'Etosa. Treno che correva, stazione per stazione, un fischio che strideva, diretto a collisione. Quel fischio come un grido attraversava le regioni, a chi fu testimone non occorsero ragioni. Il grido fu contagio, l'eco di un presagio, un grido di rivolta con la forza di un suffragio. La stessa convinzione per emulazione, dalla Val di Susa attraversava la nazione. Fu sollevazione dal nord al meridione, la spinta di un cannone, la detonazione, lanciata al Parlamento giù. Se è chiara la notizia di altri mille treni a bomba contro l'ingiustizia. Noi non vogliamo questa alta velocità in Val d'Etosa. Noi non vogliamo questa alta velocità in Val d'Etosa. Noi non vogliamo questa alta velocità in Val d'Etosa. Se non vogliamo questa alta velocità in Val d'Etosa. Sono arrivato qua minorenne. Minorenne? Sì. Minorenne. Quanti anni c'hai adesso? Adesso ho 21 anni. Mi hanno lasciato come si dice, una persona che lui conosceva. Sono venuto con l'insieme qua. quando c'era la guerra in Costa d'Avorio. Ho nato una famiglia, dopo quando ho avuto 18 anni mi hanno mandato fuori. Mio padre finalmente ha ottenuto questo trasferimento in Italia, che all'epoca doveva essere per un periodo di 4 anni, invece poi nel mio paese scoppiò la guerra e noi dopo siamo rimasti in Italia. Sono arrivata per motivo di studio, ho fatto un anno di Erasmus e quando è venuto il momento di partire ho deciso di rimanere di più perché ho incontrato musicisti e ho cominciato a suonare tanto con loro. 33 anni a Italia. Basta. Che facevi prima in Italia? No, prima c'è il lavoro 26 anni. Che lavoro? Visto. Che facevi il lavoro? Macellaro. Macellaio? Sì. Dopo fa male al cuore, io non sono capace di fare il lavoro. 26esimo anno questo qua. E dopo la maturità scientifica, io ho vinto la borsa di studio, sono venuto lì all'Università dell'Aquila a fare gestione aziendale. Poi per problemi economici varie non mi sono più potuto permettere di continuare gli studi. Quando ho finito lì che non potevo più continuare gli studi, io sono venuto a Roma. Roma è un posto tutt'altro che scontato, io non sono venuto a Roma come studente, anzi ho voluto proprio evitare la città di Roma. Proprio per non cadere nella trappola dello studente che è fuori sede però in realtà tiene sempre un piede dentro casa. Quindi in realtà ho studiato a Perugia per un paio d'anni e poi ho vissuto all'estero per molti anni. Io ti giuro, era proprio, sognavo tutti i giorni questo trasferimento e alla fine siamo venuti a Gorizia in Friuli. Cioè quella non era l'Italia che pensavo di scoprire. Io a Gorizia non ci volevo stare. E allora con mia madre la costringevo a prendere l'autobus notturno e io e lei andavamo di notte, viaggiavamo le ore, tutta la notte per poi tornare a casa in Bosnia. Roma per me è stato tutto il percorso inverso, cioè è il luogo della maturità, o meglio, della maturità che si ha a 30 anni. Cioè il posto dove ho scelto di venire per dare profondità alle cose che ho fatto finora, creare una rete di contatti e lavorativa solida. Avevo una cugina che in quegli anni aprì un locale tra Roma e Napoli e quando io ho finito le superiori sono venuta e lo sai cosa è successo? Mi sono innamorata del sud Italia, cioè non lo so, mi sono innamorata e ho detto no, io da qua non mi muovo. Dall'occhio all'inizio è molto un casino, rumori, traffico, gente che parla forte e che quando ti becca ti parla subito, cioè, non c'è una distanza come nella mia città. Anche ho studiato qua un po', ho fatto come si dice la scuola idraulica. Una settimana con documento come si è scaduto. Per rinnovare mi sono chiesto come si dice residenza, ma non si, dove le trovo la residenza? Passaporto non c'è, è scaduto. Permesso di soggiorno è scaduto. Carta d'identità è scaduto. Carta di banca è scaduto. E io parlo con il carabiniere, per favore, anche l'ufficio di stranieri. Ma è una cosa per me, io vado a casa mia per sempre, basta Italia. Tornando qua sapevo che avevo un progetto fisso e anche perché qua a Roma ho incontrato una francese che anche faceva l'Erasmus e ci siamo detti insieme di tornare. Credo che da sola non sono tornata. Ho cominciato a vivacchiare, a lavoricchiare, ho anche spacciato. Sono andato in galera e mi hanno tolto il permesso di soggiorno. Non è che anche quando sei dentro lì ci sta uno reinserimento, non c'è niente. Esci e finisci la tua carcerazione, ti dicono alla porta, eccola lì, esci. Yeah, freddo oggi, capito? Quindi è una cosa che fa male alle persone che già sono, hanno portato, non lo so, due persone all'ospedale perché stavano male, che hanno preso il freddo. Nessuno merita di rimanere qua a dormire fuori. Noi prima dobbiamo cercare di essere le persone brave, capito? La sicurezza non è solo per gli italiani, pure per noi, perché uno che spaccia la droga, no, nessuno viene qua con la droga qua in Italia. Sono venuti, hanno trovato questo cocaina qua, hanno trovato la droga qua, hanno trovato qua la marijuana, hanno trovato qua hashish. Quindi se il governo dice che gli africani sono spacciatori, e questa cosa io non sono d'accordo. Avere la voglia di avere tanti soldi subito, soldi facili. Questo, un uomo non deve mai dipendere dai soldi facili o soldi subito. Devi sempre cercare di essere felice la tua vita. È l'unica esperienza che uno deve avere di essere felice, non è di avere tanti soldi che la polizia si scappano indietro, se cammina guarda indietro sempre, se non c'è sta la polizia o la carabiniera. Io quello che dico agli africani come me, gli africani come me, quello che dico, il consiglio che gli dicono, ognuno deve capire questa cosa, perché io sono qua, io sono venuto qua perché ho questa cosa indietro che non mi lascia stare il mio paese. Quindi ognuno deve sempre pensare alla famiglia che ci hanno dato tutto e che ti hanno educato bene. E ti dico una cosa, che le persone che vedi qua che hanno finito la vita in prigione, le hanno cacciate in prigione e vengono dalla famiglia, che una famiglia brava, se uno ti dice che questo viene da questa famiglia in Africa, non lo credi. Non siamo uguali, come voi italiani non siete uguali. L'alleanza non esiste. Io, se uno mi dice che siamo uguali, è un insulto per me. Perché se io sono cattivo, tu sei bravi e poi mi dici che siamo uguali, è un insulto, capito? Quindi l'alleanza non è quello che stiamo cercando di avere un buon dialogo con i cittadini. E questo dialogo magari si fa sparire la paura che ci sta, perché la paura è una cosa che istrutta, non lo so come dire, e fa morire l'amore della società, e perché tu puoi trovare un amico e poi magari sei con noi, capito? Non è che hai paura di stare con noi, e le gente che sono cresciute e i loro parenti, che cosa le dicono? I neri sono cattivi, i neri non sono buoni. E tu che dici queste parole a tuo bimbo o a tua bimba, non è una cosa buona di dire che queste gente non sono buoni. Salvini, guardami, io sono povero. Dormi nella strada e poi tu sei geloso, cosa vuoi? Dimmi, io lascio l'Italia il prossimo mese, io vado in Parigi. E là mi trovo una bella vita. Per le vene Volevi sapere che la rivolta dell'Unione sarebbe fallita? Sì. E perché hai accettato di farlo? È questo che il generale Apis mi aveva chiesto. Cosa? Di essere giustiziata? Se io fossi rimasta invisibile, la verità sarebbe stata nascosta. Non lo potevo permettere. E se nessuno credesse a questa verità? Qualcuno ci crede già. Chains of mouth below us lay. È una bella sensazione stare nel casino più totale e cercare di portare un po' di tranquillità, di armonia, no? Ma diciamo che lo strumento si presta molto, e già il suonarlo ti comunica tantissima serenità, tantissima calma. A Torino sono venuto 3 anni fa esatti per lavorare come ricercatore universitario all'università, sono come astrofisico. E oltre a fare l'astrofisico sono anche questo strumento da 4 anni ormai e in realtà sto pensando di lasciare la carriera come ricercatore per dedicarmi ad altre cose, tra cui sicuramente un 50% il coltivare di più questo strumento e vedere dove mi porterà, insomma, questa nuova strada. In realtà, probabilmente adesso che lascio il lavoro ce ne andiamo dall'Italia e si pensava, proprio oggi ne riparlavamo, di andare a Mosca, in realtà, questa metropoli di 20 milioni di abitanti, e di stare probabilmente lì nel periodo estivo e in primavera, autunno-inverno andare in India, non per un mese come facciamo di solito, ma per 4, 5, 6 mesi. We'll be right back. shopping, passeggiata, così in quartiere. Siamo appena usciti da una metro disastrosa, però... Ma io non torno a casa ieri sera, questo giustifica il mio abbiamento poco sobrio e giornaliero. E io ho finito da poco di studiare e quindi ora sono in quella fase antipatica di cercare lavoro. Chiamasi disoccupazione. Ma anche cercare un lavoro è diventato un lavoro ormai. Ci siamo laureate entrambe in moda. Però ovviamente bisogna compensare lo studio con un lavoretto. E la moda va sempre verso l'identificazione. Ora ci sono le varie categorie, quindi tu puoi essere un hipster o puoi essere un pancabestia, cioè quello che ti pare, però comunque l'andamento è andare verso il trash, perché i soldi sono pochi, non è più come una volta che potevi andare a fare poi shopping nella boutique. Però fondamentalmente ognuno fa il cavolo che gli pare, veste cosa vuole, per veste intendo non abbigliamento, ma veste è un'identità. Io oggi mi vedi così, domani posso avere un cappellino da baseball, dopodomani essere anni 70. Il mio vestito migliore è il mio sorriso, in ogni caso. Si sponsorizza una cifra. We'll be right back. bisogno di un manuale, di un manuale, un manuale di meccanica. Ho bisogno di ingegneri, ingegneri che lo sappiano leggere. Ho bisogno di tendere fili elettrici, fili, fili, fili, fili. E suffissi diversi da bio, per parole con dentro logici. Dentro, dentro, dentro non c'è più niente che si possa dire organico. Apoteosi nel distacco e troppi, troppi, troppi, troppi, troppi libri di Asimov. Troppi Osami Tezuki, Naoki Urasawi. Sono dipendente dalle scienze, dalle scienze, dalle scienze, come fossero chiese dell'atomo. I miei profeti, i miei, sono persone che scoprono l'indivisibile. Un sapere che accetto come credibile, ma che per me è invisibile. Perché per me solo dati sono, solo dati sono, sono, solo dati sono. Solo un ragazzo semplice, ero solo un ragazzo semplice. Con il, con il, con il, con il fascino per la scienza. Che solo un bambino si permette, stroncato da una professoressa. Nei primi anni delle medie, primi anni, primi anni, primi anni. Anche i secondi, terzi gradi, superiori ed universitari mi respingono, mi respingono, mi rendono, mi restringono, mi, mi, ed i, mio, mio Dio, ed io ho passione, non attitudine. Immagino la scienza in solitudine. Il sapere non è per me, non è per me, non è per le figure di scienziati quasi magiche, stimolano gli immaginari, figure, figure di Nikola Tesla. Io non so se mentono, io gli credo. Ho la mia religione, la mia religione, la mia mitologia. Non ho una testa per lo studio, ma per l'immaginazione. Nella mia epoca gli scienziati vivono nella parcellizzazione del sapere. Nella mia epoca niente visione d'insieme, niente visione, niente visione, niente. Ho bisogno di dati che portino avanti la mia fede nell'uomo, inteso come persone. Ho bisogno di dati, dati, dati, dati. E che siano dati gratis, dati gratis. In cambio della mia fede nel principio di indeterminazione. Sono utente dell'ideale scientifico. Apprezzatemi scienziati, sono il vostro interlocutore. Non vi interesso, non sono un tecnico. Non posso discutere la fede con i miscredenti, i miscre, miscre, matori delle pazze ipotesi. Pazze ipotesi, pazze ipotesi. Ho bisogno di una revisione del mio corpo e mai della storia passata e sempre della storia futura. Non mi accettano la scienza, non mi accettano la popolazione. Ma sapete cosa ho fatto? Sapete cosa? Sapete cosa ho chiesto? Sapete cosa? Sapete cosa mi hanno dato? Sapete cosa? Sapete cosa ho fatto? Sapete cosa? Sapete cosa ho chiesto? Sapete cosa? Sapete cosa mi hanno dato? Annulla, tralascia, riprova. Sapete cosa? Sapete cosa ho fatto? Annulla, tralascia, riprova. Annulla, tralascia, riprova. Sapete cosa ho fatto? Annulla, tralascia, riprova. Sapete cosa ho chiesto? Annulla, tralascia, riprova. Mi hanno dato questo corpo di fibra di carbonio e lega di metalli, fibra ottica e sofisticati laminati plastici, polimeri, polimeri, meritatissimi di polimeri. Sapete cosa ho fatto? Ho dato il mio corpo per questo esperimento, il mio. E adesso tutti mi attendono, mi spiegano molto volentieri ciò che fino a ieri era esclusivo solo per chi studia. Per chi, per chi, per chi se non per me? Sono la connessione, vuoi chiedere a me, vuoi chiedere a me? Di umano mi rimane lo stomaco e il cervello. Vieni a scoprire che gli scienziati non mentono. Vieni a chiedere a me. Vieni a scoprire che gli scienziati sono diversi tra di loro. Non sono mai d'accordo tra di loro. Che hanno tutti ragione, chi più e chi meno. E non studiano per ottenere l'oro. Che hanno bisogno del supporto perché lo scetticismo è già il loro pane quotidiano. Pane quotidiano, pane quotidiano. È un'espressione di preghiera, la saltiamo. A volte lo scienziato dimentica cosa ha mangiato. Altro che pane quotidiano. Adesso tutti vogliono parlarmi, anche se a questo balbettio robotico con cui ripeto, con cui ripeto, con cui ripeto, non funzioni i termini. Con cui ripeto, ti invito a casa mia. Ti spiego come funziono, ti spiego come penso, ti spiego cosa mangio. Adesso quando parlo il mio distacco è giustificato. Quando parlo mi impappino, è il mio sistema operativo che deve essere aggiornato. Non sono più autorevole, perché non sono autoricaricabile. Ho bisogno di un filamento di palladio e qualche litro di acqua pesante ogni 4-5 settimane, 4-5 mesi, 4-5 giorni. Le mie esigenze sono sempre state queste, sono sempre state incomplete, incomplete, incomplete. Ora capite come ci si sente ad avere un animo non umano, intrappolato in un corpo umano. Identità robotica, nata nell'uomo quando ha scoperto la prima fusione metallica. Headless, I skid like Rita lifted ocean. I just like my planet don't spin. Skid all over marks like I'm haunted. Round it up from a la la like profits. It's never much. I'm more torn in the cockpit. Don't interrupt my turbulence. Slap my path. Massive. Demands panoramic. Yeah, 10,000 leagues, sub-zero, sweat dripping. My hand got the rag, grip dies like Dead City. Stand up, the love layers, eerie silencing. Feel that fresh meat, a magnetic slap. Severe swerving, I tow lag of uncertainty to your zipper. Locks myself, yes, the web commence. Shot 60 shots a second on the hex. Clock, I strike between these targets on the plex. Drop, have a run, so zipper, zipper. Yeah, I can't help yourself, let's get it down. I've dealt with yourself, I tricked you loud. I'm all held to sculpture, I'm on the bounce. And I mean left, but we fast getting out. Those in my chest feel like it's fixed into bounds. Bounds, bits, I can't leave a road. Crashing in the planes, I crash and scroll. Max out my old, don't blame me, I'm no thug. Like I choose juice. I binge all black and has my tragic ends to a means I can't establish. Noise of nomads, I'll sap by the spikes. Humanless in both hands, can't kill myself twice. Thorns tremble like dildos, wielded by dummies. Traumatized up beside, broke your eyes like dummies. I'm too fast to go, these days won't stay close. Control is old, smash on my skin. My muscles strong like slack, get the wind. A thugly astronaut, grab my skin. Venti minuti dopo la mezzanotte, 25 o'clock ai controlli, Radio Onda Rossa. '87.9 della modulazione di frequenza. E abbiamo rubato, arraffato a piene mani nell'archivio di Termini TV, l'avevamo annunciato e avevamo anche avuto modo un po' di mesi fa di chiedere l'autorizzazione a chi cura Termini TV. Nel frattempo, con il dovuto anticipo, 9 novembre 2019 alle ore 18 a l'una e le altre, spazio occupato di femministe e lesbiche in largo Niccolò Cannella 17 a Spinaceto. Sena Benefit a sostegno delle compagne condannate per la solidarietà femminista, perché il processo dell'Aquila ci riguarda tutte. Alle ore 18 proiezione di Invisible Woman di Ali Smith. Nel Kingdom 2018 25 minuti, sottotitoli in italiano, da Sempre Fair Cake del 2019, Bologna Lesbian Film Festival. Un viaggio nella vita di due attiviste di Manchester che hanno attraversato e alimentato per 50 anni le notte femministe e lesbiche. Negli archivi della città non c'è traccia del loro passaggio. Raccontiamo noi la nostra storia, memoria femminista. A seguire il dibattito, cena vegan e DJ set. E poi come avevamo anticipato precedentemente, domani, anzi oggi, ormai, alle ore 20, cena a sottoscrizione di Radio Onda Rossa e a seguire presentazione del libro La dignità del lavoro di e con Alfonso Nadella. In apertura il reading in ricordo di Nanni Balestrini, a sostegno della radio La dignità del lavoro con Alfonso Nadella. E poi ancora, correlata modesta, Do It Yourself Underground Festival, marci su Roma con gli Oipolloi e una pletora di altre band, Pancoi. Sabato 2 novembre, in solidarietà con chi si ribella, ogni ricavato sarà devoluto per le spese delle cariche delle compagne e dei compagni privati della libertà. Il tutto a Roma, lo Strike, spazio pubblico autogestito dalle ore 17, perché i concerti sono tantissimi, via Umberto Martini 21, contro ogni sgombero. My voice, see my reflection, invited, excited. Dibatti, dimostre, presentazioni, distro, sì, perché ci sarà anche una chiacchierata, come definito, una chiacchierata contro la repressione. No one's ever seen me feel shit, but your bits of egg gleaming like this Christ. Cover me like skin tight. Why my rap is like, why they might be right. I'm gonna skip so much. Fotografia di una città scattante 10 minuti dopo l'alba. Fuochi da campo accesi, uomini in K-Way logori. Scooter sfrecciano come libellule verso lavori impossibili. Venditori di pesche e di peroni arrancano stremati verso il proprio alveare. Giovani nulla facenti rigettano quello che resta della notte. Furgoncini edili, barbe sfatte e pesi al centro dello stomaco. Due ore dopo, un po' più al centro, mille teste uguali come i grani di un rosario sulla linea del treno. Entra pure, mettiti là, capisco, ti faremo sapere. Monta sullo scooter e riparti attraversando la città. Oggi abbiamo lacrime e sangue al posto di burro e marmellata, va bene lo stesso? Ho provato a dire alle persone che abbiamo sbagliato strada, ma non vogliono ascoltare, non ci provano nemmeno. Meglio una grande gabbia che un piccolo mondo libero. Abbiamo palazzi vuoti e gente congelata. Abbiamo pizza nel cassonetto sul retro e un esercito di morti di fame. In questo deserto abbiamo un secchio di sabbia nera trafilata al bronzo di Scozia, ma l'acqua la dobbiamo chiedere in ginocchio. E non provare a dirgli che abbiamo sbagliato strada. Gli puoi parlare del tempo, dell'esecutivo che hanno votato che affronta la formazione di un governo in diretta su Canale 5. Gli puoi parlare di un mondo catodico indipendente da quello reale, dove le Barbara D'Urso sono i buoni, gli Antonio Ricci i sovversivi e le patrie galere stanno negli studi di fuori. Ma non gli chiedere di aprire un libro o di pensare prima di parlare. E soprattutto, fratello, non gli chiedere un pezzo di pane quando hai fame o un rifugio se ti senti in trappola. Potremmo pure conviverci, come potremmo andare via, del resto. L'ironia di tutto questo è che forse l'ironia di tutto questo non esiste. E adesso dormici sopra. Buonanotte. Ho perso un occhio, che ero bambino. E pure un altro, sta lì vicino. Mi serve preferire, non l'avranno mai. Mi porta solo qua. Quindi le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa finiscono qui. Vi vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata. Vedremo se domani riusciremo a caricare la trasmissione sul sito con playlist annessa, quindi che al momento che non abbiamo detto nulla di nostro, ma può succedere che alle volte è anche meglio parlare con le parole degli altri, lo sanno fare molto meglio. Riportata ad oggi è legge capitale. Quindi vi lasciamo, diciamo, in compagnia della compagna automatica Sonata, conosci te stesso, attendendo che alle 8 di domani mattina riprendano le programmazioni in diretta della radio con le prime pagine della segna stampa. Non dovrebbe essere previsto null'altro nello spazio della mattinata, comunque staremo a vedere. Spazio comunicazione 13:30, alle 14 tutta scena, cinema, lattica, blues, oltre alla black music alle 16, la schiena del sole alle 17, alle 18 il mezz'aria del giovedì. Tabula rasa, che però va in onda ogni 15 giorni, quindi non siamo esattamente sincronizzati con quella che è la programmazione di Tabula Rasa. Comunque alle 20 e alle 23 i cuginetti d'Apostasia che chiudono. Pensaci prima di chiamare qualcuno negro. Il palinsesto del giovedì. Fesso bianco sarà il negro di qualcun altro. Io sono nato tra gli operai, fratello, ho visto che ho... Il nostro saluto più importante va a tutti e a tutte coloro che ci ascoltano in condizioni di limitata libertà personale. Vogliamo parlare veloci, ma come un cane arrabbiato nella pelle, siamo lenti. La tua anima cresce oltre questa strada. Un pischello vero, tutto d'un pezzo intero, consapevole e fiero. Ascoltate e sostenete Radio Onda Rossa. Ne ci sentiamo mercoledì prossimo. Dai, così ce ne andiamo sotto la luna comunista. Ai. Tonight we'll win. Let it be. I'll share our dreams under a communist moon.